Siamo qui allora mercoledì 9 settembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre il secondo giorno consecutivo sulla Cina, Pechino e il PIL europeo mettono le ali alle borse, dunque dalla Cina all'Europa e i riflessi sulla giornata dei mercati finanziari in apertura sul Sole 24 Ore. Poi invece per quel che riguarda gli altri quotidiani la scelta più gettonata è quella della svolta del Papa. La svolta del Papa sui matrimoni, più facile scioglierli. Pratiche gratuite, più rapide, ruolo centrale del Vescovo e la riforma del processo matrimoniale promulgata dal Papa. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, mentre per quel che riguarda la stampa, la svolta di Francesco, processo breve gratuito per annullare le nozze, questo è il titolo. Il giornale mette invece in prima pagina caos matrimoni, l'Europa ci ordina subito quelli gay. Il Papa, dopo 3 secoli di rigore, vara gli annullamenti veloci e gratis. Nozze nulle, la rivoluzione di Francesco è anche il titolo di apertura del Secolo XIX. Anche su Avvenire questa notizia, ovviamente a ampio risalto, matrimoni nulli, giudizi rapidi e più accessibili, questo è il titolo della prima pagina di Avvenire, non è il titolo principale ma è in ampio risalto. Poi Repubblica, Renzi al PD, trattiamo sulle riforme, dunque l'apertura sulla politica, sulla riforma del Senato, così anche il Fatto Quotidiano, i mostri del nuovo Senato, chi avremmo a Palazzo Madama se fosse già passata la nuova legge. Alcuni esempi che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina di coloro che avremmo al Senato, cioè i consiglieri regionali, mette alcune persone che hanno anche avuto problemi giudiziari. Uno su tutti è Totò Cuffaro, che si trova in carcere. Ma poi mettono insieme a questi Roberto Formigoni, Roberto Cota, Scopelliti, Fiorito, ricordate, Batman Fiorito, Vincenzo De Luca, Nicole Minetti, queste in prima pagina, Luca Gramazio. Alcuni esempi di ciò che il Fatto dice non vorremmo mai che andassero al Senato futuro. Libero, la Merkel caccia 95.000 profughi. Mette questo titolo abbastanza che fa un po' saltare sulla sedia, perché proprio nel giorno in cui la Merkel dice accoglieremo 500.000 profughi, ma scrive Libero, la Germania in realtà accoglie i siriani ma caccia altre persone. Migranti, costi via dal deficit, questo è il titolo di prima pagina invece del Messaggero, ma buttiamoci nel leggere qualche articolo, ce ne sono alcuni legati alla scuola di diverso taglio. Beh, intanto c'è un'intervista che il Giorno ha fatto ad Agnese Renzi, cioè la moglie del premier Matteo Renzi, Elettra Goulet a Firenze, va a trovarla insieme ad altri giornalisti perché Agnese Renzi era in fila ieri come tutti i precari per la nomina della cattedra, per sapere dove doveva fare la supplente, dove farà la supplente quest'anno. Elegante, abbronzatissima, la First Lady Agnese Landini ieri alle 11.20 si presenta per l'assegnazione delle supplenze annuali ai precari. Ed ecco qui che dice intanto: spero che questo rito penoso l'anno prossimo non ci sia più. Così Agnese Renzi, ogni volta è un'umiliazione, sembra si venga a chiedere. Allora, cari ascoltatori, come detto, molti giornali aprono su questa decisione storica del Papa di modificare, modificare la rivoluzione della Sacra Rota. La speravo in un incarico a Firenze, cioè, già a Empoli sarei stata in maniera storica, sicuramente tutti i procedimenti per quel che riguarda l'annullamento dei matrimoni del Vaticano, una riforma che cambia il diritto canonico. Allora sarebbe stata disposta a fare qualcosa che era fermo nel 1741, come racconta davvero Carlo Marroni oggi sul Sole 24 Ore, a pagina 19, la rivoluzione della Sacra Rota, una riforma destinata a segnare in profondità il pontificato di Francesco, un cambio netto delle regole nel processo canonico per le cause di nullità matrimoniale, come non accadeva dal 1741. Allora è un tema legato alla scuola, nella direzione imboccata dal Papa argentino di una chiesa attenta agli ultimi, ai margini della comunità, ai poveri. È decisione, ecco, allora, di che il processo, una cattedra, che in alcuni casi dura anche 10 anni, alla, diventa più snello, pur senza mettere in discussione i capisaldi di della dottrina, a partire dalla indissolubilità del matrimonio. C'è di più, però, scrive Marroni. Le polemiche, Bergoglio mette al centro il principio di collegialità, dando ai vescovi delle diocesi un ruolo centrale che fino ad oggi scontato quello che doveva scontare, molto, però è stato immesso in ruolo, se volete, insegnerà dire il commento anche del teologo Bruno Ora, Forte. Si tratta che parla di una decisione che dal punto di vista della legge non ha nessun tipo di è chiaro questione. Che per semplificare si tratta di discutere l'opportunità di metterla a insegnare, ma non è la prima volta che lo fa una persona che è stata condannata per l'omicidio, non cambiando insegnare ragazzi, insegnare non è così, si tratta di annullamento per le cause genitori di Marta Russo, ma certo nulla contenti. Questo pone al centro dell'attenzione la memoria oggi di nostra sui giornali, figlia Marta, la pagina 21 c'è di Repubblica. Un'altra notizia, Federica Angeli, la famiglia ascolta il parere in di primo Aureliano, piano, e la cioè mamma di Marta Russo. L'ennesima tirata d'orecchie provo che l'Unione Europea fa all'Italia. In questi sulla anni già le volte gay, questa le brava del, persona, persona tra virgolette, ha avuto cattedre come supplente sì, in istituti romani, anche alla scuola dove andava a lezione Marta. All'Italia, ma almeno in quell'occasione ha avuto il buon senso di lasciare, a dire la verità, una persona colpevole di omicidio non può fare l'educatore. Sapete che in Italia c'è questo dibattito, dice la mamma di Marta Russo. Io non dico che non debba avere un lavoro, ma almeno Monica non Cirinà, quello di trasmettere nozioni democratiche ai ragazzi. Sta. Ovviamente Scattone non parla, la sua firma, chiuso la nella relatrice casa, Monica Cirinà, ma, che viene intervistata come racconta Luca della Sera, pagina 5, sul Messaggero, e dice eccola 11, qui l'ennesima tirata d'orecchia all'Italia in tempi agli amici che ci stanno intorno, e dice Giovanni Scattone ogni volta è la stessa storia, le stesse polemiche, un lavoro diverso dall'insegnante, io lo farei anche, ma di questi tempi. Però Monica Cirinà dice anche se c'è ostruzionismo di perenne di alcuni senatori, le polemiche riesplodono in Commissione Giustizia, è arrivata non appena ieri la cavalleria, occupazione Gasparri, si è sfogato Sacconi, Scattone, Caliendo, ma devo pur guadagnarmi Malan, da vivere Di Maggio, come tutti. Di Biagio, l'insegnamento è il mio ma mondo, senatori, mi trovo bene con i ragazzi, anche loro si sono sì, trovati sì, però bene hanno firmato me. E presentato Corriere della Sera, lui ha attribuito un'altra frase sull'Unione Civile, e io vengono a sostenere, potrei anche pensare di chiedere perdono, ma dalle 11 del mattino per un omicidio alle 5 del pomeriggio abbiamo approvato solo 60 emendamenti, quando invece per approvare un emendamento in genere basta una ventina di secondi. Adesso mancano ancora 1260. Tra l'altro, a proposito di scuola, noi avremo ospite Luca Zaia. Con questo ritmo, il governatore del Veneto, che ha deciso Renzi, come presidente della regione di fare ricorso alla Corte testo, Costituzionale, beh, contro il provvedimento della buona scuola, di andare in aula direttamente senza aspettare l'approvazione della cancella commissione. Il ruolo della ma regione, sarebbe una sconfitta per l'intera vanificandone commissione. Quei compiti programmatori, ma Monica Cirinà punta il dito contro chi e quindi la richiesta mette di traverso incostituzionalità della buona scuola, legittima, ma secondo la regione Veneto fatti apposta per ostacolare la Corte Costituzionale. Questo provvedimento vedremo ovviamente che staremo succede. A vedere. Oh, c'è un grande dibattito sempre sul tema, parleremo anche della vicenda ben sviluppato anche oggi dai giornali sul centro del palcoscenico, c'è la decisione di Angela Merkel di dire accogliamo 500.000 profughi l'anno, anche se Libero dice sì, accogli i siriani. Però mentre l'innocente in cella per errore caccia dall'altra sapete parte, quanto ci costano l'anno, ce lo scrive il giornale oggi a pagina 12, profughi 35 di altri paesi milioni e in particolare 255.000 euro, questa è la cifra dall'Afghanistan, per 995 domande ma di anche dal Kosovo, dalla Serbia, dall'Albania, del 41,3% rispetto all'anno precedente 2013. Il tema è questo, perché Angela Merkel ha preso ciò questa che ci decisione? Beh, è una decisione pragmatica certamente. Si fa e economicamente e pragmatica, scrivono per esempio tutti i giornali innocenti. Oggi interessante, ma non è questo la cacace a pagina 3 mani sul volante, la bomba demografica quest'altro, che solo gli immigrati che possono ci fa disinnescare, di scrive questa giornata. Tutti hanno lodato l'inversione, ce lo scrive il Messaggero, una vicenda che abbiamo affrontato riguardo al finanziamento europea pubblico e ai partiti, ne abbiamo parlato in passato quando abbiamo detto che quest'anno i partiti avevano i bilanci che non sono stati controllati, perché qualcuno è stato colpito anche dalla precisione del numero di migranti. Nonostante che la ciò, si è detta siccome era rischio 500 il fatto l'anno. Di ricevere i soldi, pochi hanno ricordato che la Germania, 2013, con Italia e Giappone, 2014, è tra i paesi più vecchi al mondo. Partiti, danni a un deficit di natalità di 600.000 bambini. La bassa natalità ha già portato il paese a un indice di vecchiaia molto alto che, se continuasse, allora il Messaggero racconta questo: finanziamento pubblico, i partiti si fanno la sana necessario per l'equilibrio demografico. Per il 2013-2014 i partiti riceveranno i soldi del finanziamento pubblico anche se non è stato effettuato il controllo dei loro bilanci. L'Italia è nella stessa identica prevede una situazione demografica della Germania, con la sola differenza che nessuno se ne ricorda, che sarà esaminata oggi dall'Aula della Camera, un testo che modifica la legge sul finanziamento pubblico prevedendo una deroga, una deroga all'obbligo di certificazione dei bilanci per il 2013-2014, ha fatto aumentare di 4 milioni la popolazione italiana e che era fortemente ringiovenita. D'altronde la domanda che ci dobbiamo porre è questa: chi pagherà le pensioni agli anziani quando diventano troppi per questi due anni, anche se i bilanci non sono stati controllati? Ecco dunque la decisione tedesca, anche il Giorno la mette così: pagano le pensioni e fanno figli, Merkel vuole 500.000 migranti l'anno. Chiamatela spregiudicata, chiamatela pragmatica, qualcuno può pensare che sia una politica, una statista che ha una visione politica. Tra l'altro, sulla questione dell'immigrazione, cito anche questo approccio che c'è oggi sui giornali. Aprireste casa vostra a un immigrato dopo che il Papa ha detto li accolgano le parrocchie? Dopo che Gianni Morandi su Facebook, rispondendo alle critiche, ha detto sto pensando di aprire casa mia? Dopo che il premier finlandese, tale Sipilä, ha detto io ho una casa nelle campagne finlandesi, non mi serve in questo momento e sono disposto a darla per accogliere qualcuno? Allora il Giorno è andato con Elena Polidori a chiedere ai parlamentari: e voi aprireste casa vostra, caro onorevole? Vince su tutti la risposta di Gianluca Pini, onorevole della Lega. Aprire casa mia? Perché invece non mi date gli indirizzi dei 900.000 coglioni che hanno votato alle primarie del PD? E li mandiamo a casa loro i clandestini. Bella, no, questa? Questa è la risposta di Gianluca Pini. Ma tanto aprirà casa sua, ed è una casa di quelle, una magione più che una casa, Mauro Meazza. Quanti puoi accoglierne tu, Mauro? Buongiorno, ma non saprei, un numero incommensurabile, vista anche la dimensione delle mie proprietà immobiliari. Esatto. Allora, possiamo metterci d'accordo comunque. Ti volevo dire, non ho capito questa tirata sulla vecchiaia proprio prima di chiamarmi in causa. Chi pagherà la pensione di Meazza? No, appunto, però mi sembrava che ci fosse tra un anno, due anni. Senti, veniamo a cose più serie, perché come ti avevo preannunciato ieri, avevamo delle anticipazioni sullo SREP. Sì. Sei stato attento, no? Come no, certo. L'esame condotto dalla BCE via preventiva sulla solidità delle banche, di 130 banche europee, le nostre appunto sono andate benino, come puoi leggere oggi sul Sole 24 Ore in due pagine, in due delle pagine iniziali del Sole 24 Ore. Come anticipato, appunto, abbiamo superato l'esame di ammissione in qualche modo, no? È la conferma di una ritrovata, insomma, di una certa solidità del sistema. Ti voglio poi dire, dalla UE, sì, ieri il Parlamento, citavi prima, ci ha esortato di nuovo sulle unioni civili, esatto. Dalla Corte di Giustizia invece è venuta una tirata d'orecchi, quella lì, sì, proprio una sentenza sulla prescrizione relativa alle frodi IVA, perché secondo i giudici europei sarebbe un po' troppo breve. Ma ne riferiamo naturalmente in modo dotto e puntuale sulle pagine di norme e tributi, laddove potrai anche trovare, caro Milan, potrai anche trovare la seconda puntata della guida al Jobs Act. Questa volta ti parliamo di politiche attive. Tu restassi senza lavoro, e come magari molti ascoltatori si augurano, oppure no, non lo so. Sì, ecco, sì. Ti capitasse, comunque ti spieghiamo come sono cambiate le normative in materia appunto di politiche attive. Sei contento adesso? Molto, molto. Ecco, se torni invece all'inizio, ti spieghiamo come stanno pensando di ridurre un po' gli stanziamenti alla sanità. Sanità fa rima con stabilità, quindi la sanità e la legge di stabilità, il binomio viene illustrato ampiamente da Roberto Turno. Bisogna risparmiare, insomma, esatto. Risparmio. Legge di stabilità che pare sprecare, si aggirerà sui 25 miliardi. così avrebbe detto Renzi al partito. Però, vabbè, allora se l'ha detto il Presidente del Consiglio, noi non possiamo dovrebbe saperlo più o meno. Dovrebbe essere il più informato sulla materia. Comunque, intanto se leggi Roberto Tuno, così si capisce dov'è che si possono andare o si potranno andare a risparmiare dei soldi in materia di sanità. Va bene, vorrei concludere con riferendo ai miei amici professionisti, che ieri ci sono state due decisioni importanti della Cassazione e del TAR sulle casse, sull'autonomia delle casse in materia di pensioni. Vi rimando alle pagine Norme Tributi e poi per dirti che ci sono stati più turisti a Milano. Tu sei andato via ad agosto? Ho fatto spazio dai turisti, sono venuti per quello. Hai fatto spazio dai turisti, più 49%. Hanno chiesto anche qui gli albergatori se ne puoi andare anche l'anno prossimo. No, scherzo, naturalmente è l'effetto Expo, te lo raccontiamo oggi. In imprese e territori. Allora, il tempo corre tantissimo, ormai il tempo è sempre più breve e quindi che devo dire? Vi segnalo alcune cose in chiusura della rassegna stampa. La politica, Renzi ieri ha fronteggiato, si può dire, nella segreteria del partito gli esponenti di minoranza del PD. Si parla della questione della riforma del Senato. Allora, dice Renzi che l'articolo 2 non è in trattativa, è l'articolo su cui si è già votato, su cui la minoranza del PD vorrebbe delle rivotazioni. È in ballo, se volete, anche la tenuta della legislatura, perché come racconta Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 13, i numeri al Senato sono voti sicuri, non arrivano a 160, potrebbero bastare, ma anche no, anche perché, racconta su Repubblica Goffredo De Marchis in un retroscena interessante per chi è interessato a queste cose, a pagina 6 c'è una fronda del nuovo centrodestra, cioè il partito di Alfano. Il rischio di una fronda, 10 senatori o forse più pronti allo sgambetto in aula alla riforma del Senato. Sarà questione di tenuta della legislatura o no. Per la verità invece il Fatto Quotidiano, che racconta gli umori all'interno del Senato andando a sondare con Antonello Caporale i vari senatori, a pagina 3 trovate l'articolo, racconta Antonello Caporale che invece prevale una certa rassegnazione da parte dei senatori. Rassegnati attendono la fine. Sentite cosa dice Mario Mauro, che è stato anche ministro. Nonostante le ferite, le cicatrici che porto, cerco ogni giorno di convincere i colleghi a resistere, ma quelli non sentono più, sono atarassici. L'atarassia, quello stato per cui c'è una totale apatia, distacco dalle cose, anche le cose dal mondo. Dice Mario Mauro, ormai sono atarassici, voi immaginatevi i senatori come degli zombie che attendono la loro fine e vagano, secondo Mario Mauro, atarassici tra i corridoi di Palazzo Madama in attesa della sentenza finale sul Senato. Vabbè. Trovate questo. Chi si distacca, non in maniera atarassica, ma proprio pare anche un po' disgustata, è Silvio Berlusconi, che allora ha deciso vola da Putin, ha annullato tutti gli appuntamenti, i convegni, doveva andare anche alla festa del giornale sabato a Marina di Pietrasanta, anche quella saltata, la politica e il disincanto di Berlusconi, che preferisce rifugiarsi da Putin. Francesco Verderami, pagina 15 del Corriere, Berlusconi va e tra l'altro dice «Vado da Putin», che è l'unico leader mondiale, altro che Obama e Angela Merkel. Non ho più voglia di occuparmi di cose italiane. Un Berlusconi, racconta Verderami, che cambia discorso, cambia aria, modi per sfuggire a una quotidianità che deprime. È un Berlusconi che fa un generale e poi se ne disinnamora subito dopo, che lancia l'altra Italia al mattino e in men che meno la inabissa come Atlantide. È un Berlusconi stanco delle liti del cerchio magico, liti tra di loro e liti con loro. Un Berlusconi, insomma, che diserta tutti gli impegni e dice io con Putin mi diverto e vado là. Eccolo lì. Quindi Berlusconi, che certo non sarà neanche colpito, ormai c'è un impazzimento generale della politica, lo testimonia l'intervista che Emilio Fede rilancia e rilascia al Fatto Quotidiano a Giampiero Calapà. Cosa dice Emilio Fede, che lancia tra l'altro un suo nuovo libro dal titolo Se tornassi ad Arcore? Ebbene, Emilio Fede dice Berlusconi credo che sia al sipario politico. D'altronde io sono diventato renziano a mia insaputa. Oggi voterei sicuramente per Renzi. Emilio Fede che vota per Renzi. Ecco, questo per dire dove siamo arrivati. Va bene, non vi leggerò l'articolo, ma ve lo cito. Credeteci che nel 2011, scrive Libero, il sindaco Alemanno chiamò una troupe di Ghostbusters, cioè accalappiatori di fantasmi, per rilevare quelle porte cigolanti, quei passi strani, quei rumori di porte che sbattevano, che si sentivano in Campidoglio, secondo alcune testimonianze, durante la notte. La domanda è: ci sono i fantasmi in Campidoglio? Lasciate perdere ironie su Ignazio Marino e andiamo alla carta costa, che è questa mezza pagina sempre del Giorno, su Corona, che lascia la comunità di Don Mazzi temporaneamente autorizzato ad assistere alla prima del suo film. Mezza pagina, Corona alla prima del suo film.